Sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso agli Artemista. Sì, allora sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessigna, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Continuiamo con il rock inglese, passiamo ai 90s con la prima canzone ascoltata, ovvero Waterfall degli Stone Roses, dall'omonimo disco di debutto che esce però nel 1989. Gli Stone Roses vengono ricordati per la loro grande influenza sul brit rock a venire e per aver coniugato sonorità 60s ad ritmi dance floor, mutuati dalla loro esperienza nel laboratorio musicale Hacienda della Factory. Che ne dite? Sì, è una scena importante, nel senso che è stata importante anche per, oltre che per il Brit Rock, quindi tutta la scena Brit Rock che si è sviluppata, anche e soprattutto per la scena elettronica successiva, perché scena indie. Come? La scena indie. Certo, la scena indie, perché c'è stata l'introduzione di alcuni strumenti elettronici che poi sono diventati comunissimi. Noi stessi ne abbiamo fatto uso nei nostri pezzi. Allora, dicevamo, vivere immobile è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che avete voluto dare a queste parole? Beh, allora, Vivere Immobile, sì, fondamentalmente il succo principale è l'accostare la parola vivere alla parola immobile, che sono due estremi. Estremi, è esatto. È una contrapposizione. È una contrapposizione forte, e diciamo che può essere vista come la frenesia del vivere, quindi il vivere moderno, in contrasto con l'immobilità che è nei nostri tempi. Certamente. La condizione attuale è proprio quella di vedere persone che continuano a muoversi in continuazione, ma in realtà non sanno neanche loro dove stanno andando. Quindi c'è questa immobilità. Ed è un concetto che è ripreso anche dalla copertina del disco, perché abbiamo un albero che è fortemente inclinato, sembra quasi mosso dal vento, ma ha le radici. Passiamo ora ai My Bloody Valentine. La band di Kevin Shields esce nel 1991 con il secondo disco Loveless, che si rivelerà il loro insuperabile capolavoro. Da quell'album la canzone When You Sleep. Il lavoro minuzioso di questo disco è costato 3 anni di lavoro, cambiando numerosi studi di registrazione. Quando si dice lavoro certosino, che ne pensate? Lavorare oggi in studio è importantissimo, perché comunque ti permette di poter ampliare, anche dopo aver ultimato le preproduzioni e tutta la scrittura definitiva del pezzo, di poter giocare ancora un attimino e quindi ridefinire quei piccoli dettagli anche sugli arrangiamenti, e quindi la fase studio è importantissima. Fra l'altro aggiungo che i My Bloody Valentine per noi sono molto importanti perché hanno inventato un genere che è lo shoegaze. Sì. E noi siamo molto, bene, molto pedalieri. Vostri ascolti musicali quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Ma fortunatamente ascoltiamo quasi di tutto, tutti i componenti, abbiamo una visione abbastanza ampia di quale possa essere la musica. Andiamo dalla scena inglese alla scena americana, anche in Italia, piuttosto che anche siamo molto attenti alle cose nuove che escono, e anche al pop, quindi ascoltiamo anche molto pop. La seconda parte si chiude con i Ride, la band di Mark Gardner e Andy Bell, dal disco di esordio Nowhere del 1990 con Kaleidoscope. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco degli Artemist dal titolo Vivere Immobile.